Video game. Eccoci a un nuovo appuntamento dedicato al mondo dei videogiochi. Iniziamo subito con la risposta del gioco che vi coinvolge e che vi fa portare a casa 300 euro. Ecco le risposte della settimana scorsa. Livello 1. La sua icona è Moira. La risposta era circo. Livello 2. Talvolta quella stampa fa discutere. La risposta era conferenza. Mettendo insieme le due parole, con una sorta di lucchetto, visto che la sillaba finale della prima parola, circo, corrisponde alla sillaba iniziale della seconda parola, conferenza, si ottiene circonferenza. E il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello. Per trovarla ci vuole quella greca. La risposta era P. Complimenti ad Andrea, che si porta a casa un buono da 300 euro. E veniamo ora al gioco di questa settimana e, come sempre, dovrete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere quindi la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. Per il primo che indovina, questa settimana c'è un buono da 300 euro da spendere online o in qualunque punto vendita Euronics. Livello 1. È il simbolo della Pixar. Oggi parliamo di Child of Eden, un videogioco per certi aspetti rivoluzionario e che vedremo se avrà successo. Settembre 2019. Nella Stazione Spaziale Internazionale nasce il primo essere umano concepito nello spazio. È una ragazza di nome Lumi, cresciuta con la speranza di mettere piede almeno una volta sul pianeta Terra. Ma il suo desiderio non si avvererà mai. E dopo la sua scomparsa, il corpo e la mente sono stati trattenuti nell'Eden. Eden è una sorta di internet al quale hanno accesso tutti gli abitanti della Terra e di tutte le postazioni galattiche. È una sorta di archivio dove sono stati memorizzati dati di ogni tipo. Ma nel 23° secolo le cose stanno per cambiare. Come cambieranno lo vedremo fra poco. Adesso la seconda parte del gioco che vi coinvolge e che vi dà la possibilità di portarvi a casa un buono da 300 euro. Livello 2. Il Franceschini della politica. Torniamo a parlare di Child of Eden. E nel 23° secolo gli scienziati ricreano la personalità di Lumi all'interno di Eden, ma mentre avviene il risveglio, l'archivio della sua memoria viene attaccato da un virus sconosciuto. A voi il compito di salvare Eden e Lumi. Questo è il pretesto alla base di Child of Eden, uno sparatutto multisensoriale che immerge i giocatori in un mix caleidoscopico di musica, ritmo e grafica, dando vita a un'esperienza di gioco davvero unica nel suo genere. Disponibile per ora solo per Xbox 360 e più avanti per PlayStation 3, e Child of Eden tenta di rivoluzionare il mondo degli sparatutto perché offre la possibilità di interagire con il gioco anche attraverso Kinect o Move. Quando per giocare si utilizza Kinect, si viene letteralmente catapultati nell'azione. Il giocatore può usare il suo corpo per spostare la telecamera ed entrambe le mani per puntare e colpire, creando così una nuova esperienza di gioco multisensoriale. Nato dalla mente creativa di Tetsuya Mizoguchi, soprannominato Mitz, grande art director e compositore di musica elettronica, Child of Eden è un mondo unico, sorprendente, ricco e per certi versi affascinante. È un'esperienza di intrattenimento visionaria che sincronizza una grafica spettacolare con un audio innovativo che stimola tutte le percezioni sensoriali. Child of Eden è da provare perché dà vita a un'esperienza sensoriale di nuova generazione. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa un buono da 300 euro da spendere online o in qualunque punto vendita Euronics. La risposta a videogiochi@radio24.it. Mostro di fine livello. Quello più prezioso è fatto di quel materiale. E adesso la classifica. Sono finite le scuole e probabilmente molti ragazzini hanno chiesto il gioco dei Pokémon per la DS come ricompensa per gli sforzi scolastici. Tornano al quinto e terzo posto i Pokémon White e Black. Quarto posto per Mario Kart con il volante per la Wii. Scende al secondo posto L.A. Noire, il poliziesco ambientato a Los Angeles per PS3 e Xbox. Riconquista la prima posizione Wii Fit Plus con la Balance Board. Insomma, tutti a parte me vogliono mettersi in forma per l'estate. Al prossimo sabato. Un saluto da Stefano Gallarini. Game over.